Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Oggi veramente non riuscirò a fare la trasmissione se voi non telefonerete. 800240024, voi direte su cosa? E ve lo dico subito su cosa. Oggi c'è una grande pagina su Repubblica, ma la notizia è data anche dal Sole 24 Ore, da anche da altri giornali, su un'indagine dell'OCSE. L'OCSE è un'organizzazione internazionale di cooperazione e sviluppo economico, ha 34 stati membri attivi, ma altri stati hanno aderito, la sede è a Parigi, fa delle indagini di tipo economico, di cooperazione, insomma queste bellissime cose. Se ne esce questa mattina con una ricerca che dovrebbe in qualche maniera farci vergognare. Il rapporto fra uomini e donne di tutti gli stati dell'OCSE, immaginate c'è anche la Turchia, non che voglio dire la Turchia, ma quando vi spiegherò perché, direte perché ho citato la Turchia. Nel rapporto fra lavoro retribuito e lavoro a gratis nella famiglia, mediamente fra uomini e donne, cioè tanto lavori in ufficio, in un posto di lavoro dove ti pagano, tanto lavori a casa gratis per la famiglia, quindi fai i lavori di casa. Beh, l'Italia è il paese in testa in cui le donne hanno un numero di ore fantastiche in cui nessuno le paga e si fanno in quattro, si spezzano la schiena per figli, marito, lavori di casa, lavori domestici, e gli uomini sono quelli che non fanno una mazza più di tutti gli altri. Il grafico è impressionante perché mette nel grafico tutti gli stati, non soltanto gli stati membro attivo, in cui c'è ad esempio il Messico, noi immaginiamo i messicani che fanno la siesta, le donne che lavorano, cucinano le tortillas, adesso affondo nei luoghi comuni più triti, c'è la Corea del Sud, ve ne dico una, c'è la Turchia, immaginate gli uomini turchi che fanno lì con il caffè turco, nel bagno turco, le donne turche stanno lì, cucinano, e invece no, più gli italiani, il Sudafrica, niente da dire, ma gli uomini sudafricani sono molto più bravi, molto più attenti ai bisogni familiari rispetto agli italiani. L'Irlanda, l'Estonia, il Portogallo, la Gran Bretagna, la Francia, la Corea del Sud, già l'ho detta, la Turchia, Nuova Zelanda, Spagna, l'India. L'indiano, voi immaginate l'indiano col turbante che sta lì, cioè fa l'indiano, naturalmente la donna indiana se lavora, si ha da fare, fino a qualche tempo fa doveva anche bruciarsi sulla pira se moriva il marito, figuravoci, no, tanto l'indiano lavora più in casa dell'italiano, ecco, altro luogo comune, questa mattina ci sto sguazzando come un'anatra nello stagno. E la colonnina nera degli italiani è altissima, i numeri sono abbastanza spaventosi, gli uomini lavorano al 67% retribuiti, le donne lavorano al 47% retribuite, gli uomini non fanno assolutamente nulla per una percentuale molto minore rispetto a quella delle donne. Adesso vediamo se ritrovo il numero, ecco, le donne hanno 36 ore di lavoro gratuito in casa rispetto alle 14 degli uomini, guardate che è tanto perché diciamo è più del doppio, quindi immaginate che l'uomo italiano, almeno secondo la ricerca dell'OCSE, che è veramente spaventoso, dovremmo vergognarci, coprirci il capo di cenere, quando entra a casa prende il giornale, si infila le pantofole, come dicevo l'altro giorno nella trasmissione della donna ideale, ma sembrava una battuta, una facezia, per l'uomo italiano medio la donna ideale è quella quando entra a casa, ti infila le pantofole, si fa anche bella dopo aver sfacchinato tutto il giorno, dopo aver lavorato, nei casi fortunati che abbia anche un lavoro, ma le ore in cui lavora gratuitamente in casa sono 36 ore, capito? 36 ore, sono veramente tante rispetto alle 14 in cui lavora l'uomo. Beh, siete convinti che sia esattamente così? Beh, io no. Perché non sono convinto? Non sono convinto perché tutte le volte che ho affrontato il problema dei lavori domestici, il luogo in cui la donna lavora gratuitamente e l'uomo sta a guardare, ho trovato molto di più che un'attitudine, una passione, una lussuria, quasi una mania da parte degli uomini nel fare gli omini di casa. E questa mattina la domanda che vi faccio, siete convinti che il maschio italiano sia veramente un cialtrone che fa sfacchinare le donne o covi come un segreto misterioso, come una mania, come una passione, come qualcosa di vergognoso che uno non osa raccontare nemmeno al confessore la sua passione per i lavori di casa, omini di casa, se ci siete, battete un colpo. Mi occupo al 100% della cucina in casa mia e della relativa spesa. Per fare un esempio di quanto cucina male mia moglie o quanto non cucina, anche quando fa i bastoncini Findus o le patatine fritte, le fa in forno. Io stiro da quando avevo 15 anni perché non soddisfatto di come si stirava a casa mia, allora mi fu detto o impari, se vuoi le camicie stirate te le impari a stirare. Lo dico con cognizione di causa, probabilmente è qualcosa che corrisponde alla necessità che ha il maschio italiano di mantenere alto questo suo immeritato successo, questa sua fama di Latin lover, di grande amatore, di uomo romantico, di grande seduttore. Non esiste più, figuriamoci, chi ci guarda più in faccia, facciamo pena soltanto a vederci da questo punto di vista. Siamo fra i più grandi consumatori di pillole stimolanti, di prolunghe esaltanti, via dicendo, figuriamoci se è vero. Ecco, per la stessa ragione vuole mantenere alto il suo macismo esistenziale, quindi non confessa quello che per lui è invece la vera lussuria. Fate coming out, confessate veramente la vostra debolezza, il vostro piacere sottile per fare gli omini di casa. Questo era uno Zecchino d'Oro in cui un innocente bambino però già dava un'immagine lucidissima di quello che era il suo padre, fantasticamente immerso nella passione di essere omino di casa. Gli uomini si vergognano meno di raccontare che portano reggicalze o le autoreggenti sotto la grisaglia che dire che fanno gli omini di casa. Invece no, a Melg lo hanno detto più volte, lo hanno ammesso. Ho dovuto per lavoro anche specializzarmi nel, non sapendo stirare molto bene, nel stendere bene le camicie. Io faccio le pulizie da quando ho 19 anni, da quando me ne sono andato di casa, le pulizie di casa le ho sempre fatte, e stirare è stata una cosa che non mi è mai riuscita. Omino di casa e orgoglioso adesso. La mia, diciamo, specialità sono i vetri. Nessuno mi batte. È una cosa, mia moglie va a chiamare le vicine per farglieli vedere quando io li ho fatti. So che non mi avrebbero lasciato solo, so che avrebbero risposto compatti all'appello che ho fatto, gli omini di casa, infatti eccoli, 800 24 00 24. Francesco, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. No, manifesti subito il suo orgoglio, sono un omino di casa, alla faccia dell'Ocse. Sì, sono assolutamente un omino di casa. Diciamolo. Dobbiamo sempre essere il fanalino di coda, quelli puntati col dito, la colonnina nera su Repubblica. No, l'Italia è un paese di omini di casa. Dica in che maniera lei partecipa attivamente all'attività domestica. Beh, partecipo all'attività domestica in ogni frangente nel quale mia moglie mi coinvolge, e molto spesso mi faccio io attivo. Da questo in cosa lei è migliore di sua moglie nel fare un'attività domestica? Cosa le dà veramente piacere? Veramente piacere è preparare la cena, farla trovare pronta se io arrivo prima di lei, per lei e per i nostri figli, e in tutti gli ambiti che la possano così rendere. E lasciare tutto pulito, naturalmente, no? Come fanno le donne che lasciano tutto in disordine. Rigorosamente, perché nel pulito si lavora meglio. E particolarmente in di lavandino splendente, fornelli puliti, nemmeno una goccia di sugo in giro, tutto perfetto. Assolutamente no. Bravo, un vero omino di casa. Gianni, buongiorno. Pronto, buongiorno. Lei è un omino di casa? Ma anche, però vado anche nelle case delle donne per motivi professionali a fare lavori. Che mestiere fa? Mobiliere. Cioè, quindi lei va armato dei suoi attrezzi del mestiere a Sagomare Mobili, ma già che c'è fa l'omino di casa. Sì, sì, però vabbè, in casa lavoriamo in due e ci dividiamo comunque. Un altro uomo che è orgoglioso di essere omino di casa. Silvano. Sì, buongiorno. Omino di casa? Beh, diciamo che lo finalmente era, però... un terzo meno di casa. Bene, lei ha dichiarato appena il suo orgoglio di essere meno di casa. In no, che no, maniera? Non sono un uomo di casa, assolutamente. Omino, lo detto. Ero. Lo ero una volta. E cosa però... l'ha fatta uscire dalla retta via? Dalla retta via, da quando sono andato in pensione 2 anni e mezzo fa. Mia moglie si lamenta sempre, non fai più niente, non ti dedichi a niente, non mi aiuti e non fai. Io mi sento inutile veramente. E perché non fa più niente lei? Perché le cose che faccio a lei non comodano mai, non vanno mai bene. Ma per cosa c'ha sua moglie di caratteristica che non è contenta? Tutte le donne vorrebbero un omino di casa. Lei è giapponese, 20 anni che fa in Italia. Ah, una moglie è giapponese. E quindi lei è abituata a fare... per stare in famiglia, a seguire la figlia che ci è nata, no? E naturalmente lei ha sempre fatto da questi 20 anni la domestica, mentre prima era una donna libera. E quindi è molto difficile con una moglie giapponese con vocazione a essere geisha fare l'omino di casa, le impedisce di essere felicemente lei il protagonista delle pulizie di casa, ecco questo è fatto. Le dirò una cosa, no? In Giappone le donne quando i mariti vanno in pensione, no? Chiedono il divorzio, cioè, li mollano. È una prassi da parecchi anni. Quindi sua moglie la mollerà adesso che non è più omino di casa? Sì, mi sembra che il modo che ha di andare avanti prima o poi... insomma. Lei ha scelto una moglie giapponese, che sono le mogli che tutti vorrebbero avere, che ti servono in ogni frangente, fanno tutto loro, devi essere il padrone di casa, però non aveva considerato che adesso che lei è in pensione avrà soltanto, diciamo, come prospettiva di vita, di sopravvivenza, andare a fare la colf a casa d'altri, visto che si è esercitato per tanti anni, potrà essere una buona soluzione. Vasca da bagno, come l'ho pulita io, no, penso che non l'ha pulita nessuno. Ho usato prima la pasta abrasiva e poi gli ho dato la cera. Niente, volevo intervenire nella trasmissione che si stava facendo sugli omini di casa, dicendo a quel signore che ha lavato la vasca da bagno con la pasta abrasiva che la vasca da bagno non è una macchina. Siccome lui l'ha considerata la macchina, poteva chiamare il carrozziere se la faceva pulita al carrozziere. Vedete con quanta perizia entrano nelle discussioni sulla quintessenza di come si tolga la sugna dalla vasca da bagno. Sono varie scuole di pensiero, noi tutte le abbiamo analizzate e tutte continueremo ad analizzarle tra un istante quando ridaremo vita e voce finalmente agli omini di casa. Categoria reietta che vive ancora nell'ombra, nella vergogna, non ha avuto coraggio di fare un coming out generale, ma verrà il giorno in cui gli omini di casa scenderanno in piazza e marceranno festosi con la ramazza in mano per dire esistiamo anche noi. Melog, cronache meridiane. Piacerebbe che fosse istituita, potrebbe essere oggi il giorno, il 7 novembre, giornata dell'orgoglio dell'omino di casa. L'omino di casa Pride, pensate bene, scendono tutti in piazza con la canzoncina dello Zecchino d'Oro come inno, su dei grandi carri in cui ci sono bidet, tazze del gabinetto, lavandini, e loro lì che puliscono con il via cal, con tutti i marchingegni, poi cucine fantastiche, loro le zozzano tutte di salsa, di sugo, cucinano e poi puliscono tutto perfettamente. Pensate che gioia, ma uscite allo scoperto, non vi vergognate, potete fare anche voi una vita felice e dignitosa nonostante che siate omini di casa. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Omino di casa, omino di casa, orgoglioso. Omino di casa, orgoglioso. Oh, lo dico. Perché non tutto mi riesce bene, ma ci sono delle attività particolari che mi riescono molto bene. Cosa le piace più di tutto? Allora, lascio la parte cucinare che oramai è banale. È banale. Poi è diventato di moda. Caricare la lavastoviglie. Come la carico io, non la carica nessuno. Ci credo. Come riesco fa? Qual è il segreto? E poi la raccolta differenziata. Adesso che a Milano è arrivato anche l'umido, ci sono 4 sacchi, bisogna stare molto attenti a fare la raccolta differenziata. Mi faccio un esempio, che ne so, le cose più difficili da separare, quando butta via il minestrone, cosa fa? Separa i chicchi di riso dai pezzetti di verdura. Quando butta la carne, le ossa da una parte e la polpa... è molto facile. Più che altro mi arrabbio con mia moglie perché trovo della carta dove dovrebbe esserci... Sono donne, capisce? E quindi come la faccio io non la fa nessuno. Molto bravo, poi... molto bravo. Stefano! Buongiorno, Gricoletti. Dica, sono orgoglioso di essere un omino di casa. Sono orgogliosissimo di omino di casa. Omino di casa. E mi cura anche la bambina. Vado a portare. Cosa fa lei? La cosa che le dà più piacere? A mettere a posto gli abiti. Certo. Io odio, mia moglie è disordinata per natura. Io odio e tutti i giorni sono lì a mettere a posto le magliette, i maglioni, le camicie, i pantaloni, le scarpe. Perché mia moglie arriva a casa, prende la scarpa, non dico che la lancia, quasi. E io odio questo fatto. Sa che litigate che facciamo io e lei per il disordine? Beh, però lei può approfittare dei momenti di solitudine, pensi che bello. Guardi, vuota le scarpiere, pulisce tutte le scarpe, ci mette la carta, guardi, dentro e le rinfila dentro. Questa settimana mia moglie non c'è perché vai, è all'estero con vai. Ho ribaltato la casa, ah. La sto ribaltando completamente. Butta via tutta quella roba schifosa e inutile. Sì, trucchi e unghie. Guardi, può approfittare per pulire le fughe del bagno, sono sempre nere, levare quella sfugna nera. Sì, quello sì. Ci mette una bella giornata. Abbiamo già fatto il bagno. Stiamo passando alla cucina oggi. Oggi passiamo alla cucina. E cosa fa di bello in cucina? Il frigorifero? No, perché sa che si forma il grasso. Ah, che schifo col grasso. Sgrassa la cucina oggi. Sì, togliamo tutto il grasso del cosiddetto sui pensili, su tutto. Guardi, la invidio, non si pensi che devo andare a prendere il treno, andare a Ferrara a fare un convegno. Verrei con lei, l'aiuterei. No, è divertentissimo. A me mi viene a dire, ci muoio. Maurizio, guardi. Grazie Bruno. Maurizio. Sono... Pronto, Maurizio? Maurizio? Sì, sono... Non si sente. Casa. È un omino di casa? Sì, assolutamente. Orgoglioso? Orgogliosissimo. Dica anche lei qual è il suo capolavoro. Beh, allora, Patrice... abitualmente lavatrice. È il sabato mattina, le lavatrici, sì. Perché entrare in casa sono sempre lavatrici, mai una sola, sì. Si fermi però perché è importantissimo quello che dice, sta andando via la comunità. Lei carica le lavatrici, fa le lavatrici. Faccio. Purtroppo la perdiamo. Lui dice che la sua lussura è caricare le lavatrici. Naturalmente bisogna dividere il bucato sporco a seconda del livello di zozzeria. Non puoi mettere i calzini insieme alle lenzuola. È una cosa molto difficile, richiede un'arte profonda. Maurizio lo sa fare, però in questo momento lo setto male. Stefano, buongiorno. Stefano, no, Bruno. Eccomi, pronto. Ecco, chi è lei? Un omino di omino di casa? Ma contro voglia, io farei volentierissimo a meno di esserlo. Guardi, verrà un momento, Bruno, che anche lei capirà che in realtà la sua tendenza vera è questa e lo dirà con orgoglio. È chiaro che è combattuto da questo pensiero retrivo e antico che l'uomo non debba fare queste cose. Mi dica le cose che fa in casa. Tutto, faccio tutto, dalla lavatrice alla spesa, al pagamento delle bollette, tutto, ogni cosa devo contare su Bruno. Perché la mia compagna non segue, lavora e viene a casa, si siede, mangia e così. E lei non è contento di essere lei a fare queste cose fantastiche? No, io vorrei essere in situazione completamente opposta, cioè venire a casa e mettermi le ciabatte. Guardi, lei non deve. Guardi, io capisco che tutto il mondo è contro, è molto difficile ammettere questo, ma lei vedrà che verrà un giorno per lei naturale, normale, ammettere sì, è vero, anch'io, non mi vergogno più, non devo combattere questa identità che scalpita dentro di me, che non ho il coraggio di tirare fuori, sono un omino di casa. Lo dirà e si sentirà felice. Procediamo a una rapida dimostrazione su come si gira la frittata. Occhi aperti. Ecco fatto. Avete capito? Quest'oggi impareremo come si spreme un'arancia e come si ottiene da un'arancia o un altro agrume un succo denominato comunemente succo d'arancia o di limone. Partiremo oggi proprio dal gesto di stirare. Gesto molto diffuso e anche... molto antico, come testimoniato dai ritrovamenti archeologici. Naturalmente il movimento internazionale degli omini di casa ha delle avanguardie, delle punte molto avanzate, già da anni lanciano il loro messaggio, dimostrano a tutti come sia facile, danno istruzioni pratiche, uscire da questa sorta di prigione che imprigiona il maschio in generale, che lo costringe a dire io sto a casa, faccio il pascià, fa tutto la moglie. No, l'uomo ha una vera, profonda, insanabile lussuria per il lavoro di casa. Vero Vito? Sì. Omino di casa, dica, sono un omino di casa. Deve entrare nelle orecchie questo termine. Sì, guardi, io sono un omino di casa, deve dirlo, sono. Io sono anche un omino di casa. Bravo. Perché io lavoro ancora. Sì. Io ho 72 anni, li faccio domani il compleanno. Auguri. Per cui io a casa mia io faccio quello che c'è da fare, tutto. Alla mattina io mi sveglio alle 6. Poi preparo la colazione, mia moglie dorme e la lascio dormire. Certo. Vado a lavorare, vado via alle 7:30, sì. Quindi la vado a svegliare, aspetto che lei si alza, si siede e poi le do un bacio e vado via. Torno a casa a mezzogiorno, vado cucina. A prendere il bambino da scuola per mia figlia. Bravo, ha già detto tanto Vito, Marco. Guardi, faccio tutto. Bravo Vito, continui così. Marco, omino di casa. Sì. sì, omino, super omino di casa. Elenchi la... le cose che più le fa piacere fare e come le fa? Allora, le lavatrici sono la mia preferenza, poi dopo io. I lampadari in vetro che sono tutti da smontare, che non pulisce mai nessuno. Sì, un secondo, c'è la MN da quel lato. Sì, non pulisce mai nessuno, il sopra degli armadi, la polvere, gli acari, si spostano i mobili. Però il bello è questo, che quando vengo a casa delle mogli... Bravo, Ivo, cosa vorrebbe? Ivo, dica il suo desiderio prima che la sigla ci porti via. Cosa vorrebbe fare? Niente, io sono un orgoglioso casalingo di casa, ma sono frustrato perché mia moglie ha degli standard talmente alti. Lo so, esca fuori, esca allo scoperto, aderisca al movimento Liberazione degli Omini di Casa. Ci sentiamo domani.